La commissione, che di solito riceve le domande e fa i colloqui dopo le istanze dei richiedenti asilo non prima di un anno e mezzo, due anni addirittura in alcuni casi, è venuta subito da Roma, è la commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, che ha sede a Roma, è venuta qui in Sicilia nel giro di 24 ore a Pian del Lago, nel centro di identificazione, perché non avrebbe potuto ascoltare i richiedenti asilo in un centro di permanenza temporanea, ovviamente, e hanno continuato ad ascoltare i migranti fino a notte fonda. I profughi non hanno avuto alcuna possibilità di comprendere nulla di quello che stava loro accadendo, non hanno avuto la possibilità di capire chi è questa commissione, che cosa possono ottenere, il colloquio come si sarebbe svolto, perché non hanno avuto la possibilità di avere alcuna difesa. L'unico legale con cui sono entrato in contatto è stato il legale della Misericordia, cioè l'organismo che organizza nelle CPT di San Benedetto. È ovvio che il diritto di difesa è stato leso nel modo più palese. A tutt'oggi la parlamentare che è entrata, la De Zuleta, ci ha riferito, una volta uscita dal centro di identificazione, che i profughi non comprendono né il luogo dove sono né che cosa sta accadendo, non riescono a comprendere nulla di quello che sta loro accadendo. Allora, queste persone che sono completamente spaesate, che non hanno avuto alcun diritto di difesa, su di loro si sono perpetrate lesioni di diritti fondamentali costituzionali, saranno sentite da una commissione che a tutt'oggi non sappiamo da chi è composta, da come è composta, se vi è un interprete che fa comprendere alla persona che è interrogata le domande che la commissione rivolge, perché ancora questo non ci è dato sapere. Allora, ciononostante, da questa audizione dipenderà il suo destino. È ovvio che noi abbiamo cercato di coordinare tutte quante le realtà presenti sul territorio che lottano insieme ai migranti per i diritti dei migranti e per la chiusura dei CPT. È stato molto difficile coordinare. Ci siamo in parte riusciti. Due giorni fa abbiamo indetto questa manifestazione di Agrigento che abbiamo mantenuto. È chiaro che però è anche importante capire cosa succede qui a Caltanissetta in sede di audizione della Commissione. Qui davanti a Pian del Lago c'è un presidio che è formato da varie organizzazioni.